come stai? È una domanda inutile se poi nell'indifferenza la fai scivolare via. Occhi che si chiudono a metà verso mondi che non vuoi conoscere. Vivo più senza te, ecco vorrei dirtelo se tu mi lascerai entrare e combattere una guerra che lo so, alla fine perderò e mi resterà soltanto un sogno fragile. Questa piazza che non sa escludere i suoi pensieri deboli e spiegami perché tutto intorno a me persone che vorrei sciogliere in acido. L'indifferenza tra noi, io non posso vincerla, lo sai. Aiutami a trovare le parole e poi ti racconterò di me. Mi dirai quel che vorrai, sarà soltanto il nostro mondo fragile. Dentro.